Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno Tony da Verona, io quando faccio colazione la faccio bella carica, mi piace fare la carica di biscotti, quindi non guardo niente, sono dolci, non c'è niente da fare. Quindi mezzo litro di latte dentro la scudella piena di biscotti, grazie. Buongiorno, sono Elisabetta, chiamo dalla provincia di Bologna. Io sono vegetariana, la mattina bevo sempre una spremuta di arance e poi durante la mattinata mangio frutta e mandorle. Buongiorno a voi tutti, sono Giancarlo da Frosinone e spesso la mia colazione mattutina, diciamo alle 7, è fermarmi al forno e prendere un pezzettino, non esageratamente, di pizza rossa e mortadella. Fatela la prova, vedrete che il vostro organismo sicuramente non ne risentirà. Svegliarsi la mattina. Una dolce, l'altra salata e una vegan. Sono queste le proposte di colazione che ho selezionato per voi tra i messaggi WhatsApp che mi avete mandato. Intanto grazie al 349-238-6666 per rispondere al mio invito. Una specie di dillo all'anico, un altro modo per tenerci in contatto. Bello, mi piace, avanti tutta, non perdiamo il ritmo. Mi verrebbe da dire sempre più difficile, non solo dobbiamo camminare almeno una mezz'oretta di cammino al giorno, ma dobbiamo avere anche un buon ritmo, e questo non per mandare giù la pancetta per bruciare qualche caloria in più. Infatti la velocità del nostro cammino è un indicatore importante di salute. Ne parliamo oggi con il dottor Rozzini, che è tornato a trovarci. Buongiorno dottore. Buongiorno. Direttore del Dipartimento Medico Fondazione Poliambulanza di Brescia ed esperto in problemi di invecchiamento. Dottore, ma la velocità del cammino è così semplicemente, se uno si guarda una persona come cammina per strada, guardando come fa la velocità del cammino, ci si può dare già un'idea di quanto questa persona è sana. Le persone più veloci le associamo a persone che godono di buona salute, le persone più lente che hanno qualche acciacco. Questa intuizione ha dei corrispettivi medici molto ben studiati. Oggi, in questi giorni, sono usciti alcuni articoli che dimostrano, ad esempio, che la velocità del cammino già all'età di 40 anni è in grado di prevedere la comparsa di malattie degenerative non comunicabili, quindi diabete, ipertensione, ipercolesterolemia, all'età di 70-75 anni. E quindi una velocità, un passo veloce è un indicatore molto semplice di salute. Ma adesso che lei mi dice un passo veloce, come faccio a capire se il mio passo è veloce? Come faccio ad accorgermene? Magari ho rallentato e non me ne rendo conto. Ogni giorno un pochino, se un io giorno ho rallentato, se ho rallentato e non me ne rendo conto, vuol dire che c'è qualcosa che non sta funzionando. Naggia. Potrebbe essere, non so, una malattia articolare. Io ho mal di piedi, per sì, cui metto il piede in un modo di non, per non sentire il dolore, piuttosto che ho problemi di vista e quindi sto attento dove mettere i piedi, e questo attiva dei circuiti che comportano del tempo nell'esecuzione, quindi rallento, oppure ho manca fiato, oppure ho meno capacità di sopportare la fatica fisica, e quindi questo porta a una riduzione della velocità quindi del cammino. Quindi noi possiamo anche vedere, quando usciamo coi colleghi a prendere il caffè nella pausa, se vediamo che noi siamo sempre gli ultimi o tra gli ultimi, ecco, oggi pomeriggio rizziamo un po' le antennuzze, qualche cosa ci dice. C'è un altro aspetto che non riguarda i giovani, ma che riguarda prevalentemente l'età avanzata e molto avanzata, che è il dual task, il doppio compito, non solo sì, la velocità del cammino, ma anche il parlare mentre si cammina. Ad esempio, se si rallenta mentre si inizia un discorso, è un indicatore che le persone non sono in grado di fare due cose contemporaneamente. Quindi se non si riescono a fare due cose insieme, per fare una cosa devi rallentare l'altra. È un aspetto che ha un substrato medico, cioè se questo mi succede, lo vedo nella mia pratica medica, ne devo tener conto. Questo è quello che io faccio, perché so che è importante. Si chiama dual task, è l'incapacità di coordinamento, di integrazione di compiti diversi. Se io mi accorgo che sto rallentando il mio passo o se vedo che la mia mamma, che è anziana, ha questa difficoltà, al di là delle battute, o lo avverto anche su di me, magari quando la persona vicino a me mi fa una domanda mentre sto camminando, io ho la frazione, quell'istante per, no, in cui rallento per concentrarmi sulla risposta. Che cosa posso fare? Allora, innanzitutto andare a vedere se c'è qualcosa che si può correggere, perché molte condizioni dell'età non è che si possono correggere. Se il diabete, devo curare il diabete. Certo. Se ho il mal di cuore, devo curare il mal di cuore. Se ho mal di polmoni o del respiro, devo curare quello. E fare quello. E poi attivare le funzioni, cioè allenarsi, cioè prevenire quella che si chiama disabilità eccessiva non necessaria data dal non allenamento, dal mancato allenamento, che riguarda prevalentemente i muscoli, sì. Ecco. E qui si deve camminare sostanzialmente, non è che ci sono tante cose da fare. Dottor Rossini, quindi che si ferma è perduto, bisogna lavorare ogni giorno a mantenere in salute proprio il nostro corpo, il nostro fisico, e da quanto lei ci ha detto, ne abbiamo anche parlato in diverse trasmissioni, riprendendo numerose ricerche, è chiaro che il cammino è un fattore protettivo della nostra salute. C'è anche una relazione importante con il mantenimento della funzione cognitiva. Dottor Rossini, perché il cammino, camminare, quindi muoversi, combattere la sedentarietà è a tutti gli effetti un farmaco, e quindi tutti i medici consigliano alle persone in salute di continuare a camminare, quasi fosse una medicina. È una medicina perché ha a che fare con gli aspetti alimentari, ad esempio. Sì. Consuma energie, permette alle persone di non ingrassare, che è un effetto, un fattore. È una medicina perché previene la malattia, l'ipertensione arteriosa. Perché chi cammina riduce un po' la riduce pressione. Riduce la pressione arteriosa, no, è una medicina e perché... E anche il colesterolo, vero? Riduce il... Se non riduce il colesterolo, certamente ne permette un utilizzo migliore. È una medicina perché riduce, permette l'utilizzo migliore degli zuccheri, quindi previene la comparsa o ritarda la comparsa del diabete. È una medicina perché complessivamente producendo, diciamo, una sorta di stimolazioni neurotrasmettitoriali attiva la funzione cognitiva, la funzione mentale, e questo è un aspetto di feedback che poi si ripercuote sul movimento. Io sto bene perché mi muovo, e muovendomi sto bene, quindi è un sistema di potenziamento positivo. Un circolo virtuoso. Circolo virtuoso. Infatti, due passi ci mettono anche di buon umore. Se abbiamo dei pensieri, se non arriva la soluzione del problema, provate anche voi. Due passi, il giro dell'isolato, e spesso si trova la soluzione. Sì. Ma non è una magia. No. Poi c'è una bellissima, tanta letteratura a questo proposito. Anche recentemente avevo letto un'intervista che aveva fatto uno scrittore a Marella Agnelli, che raccontava delle loro passeggiate che facevano a St. Moritz, e diceva Marella Agnelli era convinta che camminare risolvesse tutti i problemi, e lei ne era convinta. Cioè, camminare fa bene, ti permette di riflettere, ti permette di pensare. È chiaro che i problemi poi, se ci sono, restano, però ti dà l'idea di affrontarli meglio in sì. un altro modo. Sì. Dottor Rossini, grazie per essere stato con noi. Ricordo che sulla pagina di Obiettivo Salute abbiamo postato il decalogo del dottor Rossini. Sono 10 consigli supportati da evidenze scientifiche che il dottor Rossini ha scritto per, diciamo, avvicinarci alla seconda e alla terza età in modo pieno, con energia, mantenere la salute. Possiamo dire il decalogo del... Per una vita longeva. Per una vita longeva. vivere a lungo sani e io aggiungerei anche felici, felici di vivere. Mi pare, amiche e amici all'ascolto, che anche sul cammino possiamo dire la nostra. Allora, 349-238-6666. Camminate? Non camminate? Avete una domanda, una storia, una proposta? Volete fare un invito a qualcuno? Dillo alla Nico. Usate il nostro messaggio WhatsApp, la vostra salutare ossessione quotidiana. Torna come sempre alle 12. Buona giornata.